Letture di Radio 24. Negli scontri politici, verbali e non, di mercoledì 30 marzo, Pierluigi Battista vede le colpe di tutti, maggioranza e opposizione, e parla di una disponibilità italiana alla rissa continua. Malgrado l'esortazione di Giorgio Napolitano da New York, la politica italiana ha conosciuto, mercoledì scorso, una delle giornate più convulse e sguaiate della storia repubblicana. Ma se si voleva dare plastica rappresentazione del male che secondo il capo dello Stato affligge il nostro sistema politico, a cominciare da un'atmosfera di guerriglia, nutrita dalla sistematica e reciproca delegittimazione delle parti, il copione è stato purtroppo recitato alla perfezione. Non un insulto è stato risparmiato nella caotica follia che ha investito e avvilito il Parlamento e la piazza antistante. Non un urlo rauco, non un'invettiva, un gesto di disprezzo, un'espressione smodata, una manifestazione di odio. Tutto concentrato in una manciata di ore. E nessuno ne esce con un profilo di decoro e di innocenza, nessuno. Non la maggioranza di governo, che non ha esitato a svilire la riforma della giustizia, riducendola con un escamotage parlamentare a scudo per le vicende giudiziarie del Premier. Non l'opposizione, tentata addirittura da velleità aventiniane e che sembra succube di una frenesia da megafono, quella che trasferisce la discussione parlamentare, anche vivace e dura, nell'incandescenza del comizio. Non i ministri che scambiano con il presidente della Camera battute irripetibili. Non il clima da stadio che ha stravolto l'aula di Montecitorio. Non le scene di linciaggio simulato che riesumano le pagine peggiori della guerriglia delegittimante di cui ha parlato il Presidente della Repubblica e che riportano ai riti di piazza in auge nella stagione di Mani Pulite. Lo spettacolo sconsolante delle monetine, l'assedio al Parlamento, i politici nemici, bollati indistintamente come mafiosi. Difficile distribuire colpe e responsabilità. Quando domina la rissa, non si riesce più a distinguere i colpi dati e quelli incassati, ma colpisce la disponibilità alla rissa continua, la pretestuosità con cui si coglie ogni occasione per inscenare la solita liturgia della guerra civile a bassa intensità, come è stata definita, ancor più pretestuosa e colpevole, quando a pochi chilometri dall'Italia la scena della guerra non è una liturgia, ma una terribile realtà. Non è che la guerra debba silenziare ogni conflitto, o che un'atmosfera di mistica unità nazionale debba anestetizzare il dissenso o addomesticare la discussione parlamentare, ma nemmeno può valere il contrario. La politica della provocazione quotidiana è permanente, il braccio di ferro continuo, una spirale di ritorsioni che si avvita senza fine. Lo spettacolo di mercoledì ha dato a questo scenario intossicato una teatralità di gesti che contribuisce ad alimentare un'atmosfera di ultimatum permanente. Quanto la rissa continua stia nelle corde popolari, o non emani piuttosto dal clima chiuso e avvelenato dei palazzi della politica, è difficile dire, ma non è difficile capire che l'orlo del precipizio è vicino. Tra insulti e monetine, rischiamo addirittura di non accorgercene. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Sull'orlo del precipizio di Pierluigi Battista, dal Corriere della Sera, di giovedì 31 marzo. Letture di Radio 24. Due psicologi americani hanno studiato un campione di persone fra i 19 e i 103 anni. Le donne pensano ai sentimenti, gli uomini al lavoro, pochi al loro ruolo di genitori. Per quanto riguarda invece il mondo delle opere e delle azioni, fa soffrire di più un'azione non compiuta che una fatta in modo errato. Ma tutto può servire per il futuro. Il più grande di una vita riguarda una scelta d'amore. Accade a una persona su cinque e alle donne il doppio delle volte rispetto agli uomini. A questi ultimi, invece, bruciano di più le scelte sbagliate in fatto di carriera. I litigi in famiglia, un corso di studi non portato a termine, le spese poco oculate, completano il quadro dei cinque motivi di rincrescimento più diffusi. Gli psicologi Mike Morrison dell'Università dell'Illinois e Neil Rosie della Northwestern University hanno domandato a un campione di 370 americani tipici fra i 19 e i 103 anni di indicare il principale motivo di rimpianto della loro vita. Il 18,1% ha citato una storia d'amore perduta e, come prevedibile, questa percentuale è risultata molto più alta fra i single. I risultati del sondaggio sono stati pubblicati sulla rivista Social Psychological and Personality Science con il titolo Regrets of the Typical American. A citare l'amore e la famiglia come cruccio principale del proprio passato sono stati il 44% delle donne e il 19% degli uomini. Titolo di studio e carriera rappresentano invece un'illusione svanita per il 34% degli uomini e il 27% delle donne. Più in basso nella classifica si trovano i rimpianti per non essere stati dei genitori all'altezza. Il 9% degli intervistati ha il cruccio di non essere un buon padre o una buona madre, o anche solo di non trascorrere abbastanza tempo con i figli per colpa delle troppe ore dedicate al lavoro. Subito dopo, in classifica, c'è chi si lamenta di aver trascurato la propria salute, gli amici o la vita spirituale. L'1,5% avrebbe voluto concentrarsi di più su tempo libero e piacere personale, mentre all'1% è mancato il self-improvement, o spazio dedicato al miglioramento di se stessi. I rimpianti per le azioni compiute equivalgono in termini numerici a quelli per le occasioni perdute. Ma queste ultime bruciano più a lungo. E la ricerca di Morrison e Rosie conferma quel che disse Mark Twain. Fra 20 anni sarai dispiaciuto per le cose che non hai fatto più che per quelle che hai fatto. Ma quando si tratta di amore, i ricercatori hanno trovato che i rimpianti riguardano in uguale misura il senso di colpa per un partner che se n'è andato, il coraggio mancato nel momento in cui c'era da farsi avanti con la persona dei sogni, oppure un comportamento che ha ferito la persona amata. Ma le azioni compiute, e il riferimento è soprattutto a un divorzio fatto alla leggera, rappresentano una delle decisioni d'amore più soggette a rimpianti, di quelli dolorosi e assai difficili da mitigare con la semplice azione del tempo. Fra gli intervistati che avevano un titolo di studio più alto, era maggiore la percentuale di rimpianti per scelte sbagliate di carriera. Sembra che queste persone, scrivono gli autori, abbiano una sensibilità spiccatissima per il raggiungimento delle proprie aspirazioni e la realizzazione di se stessi. Fra coloro che hanno abbandonato presto la scuola, invece, il rimpianto di oggi è semplicemente non avere ottenuto un'educazione migliore. I giovani hanno motivi di rincrescimento più profondi, relativi a decisioni di vasta portata, e quasi sempre hanno in mente una via per rimediare a una mossa sbagliata. Nel bilancio di una vita di un anziano, al contrario, pesano più spesso scelte semplici, relative alla quotidianità. La sensazione che il rimpianto sia senza ritorno e le occasioni perdute siano svanite per sempre riguarda ovviamente più gli anziani dei giovani. Ma il senso di rincrescimento, scrivono i due psicologi nel loro studio, non è sempre un sentimento negativo. Anzi, è qualcosa che ci dà la spinta ad agire meglio alla prossima occasione. Rappresenta una risorsa nel momento in cui ci insegna una lezione. È invece un problema quando la nostra testa continua a ripensarci in continuazione, senza riuscire a evadere dal circolo chiuso. Proprio come accade dopo una scelta sbagliata in amore. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Amore e carriera, quanto bruciano le occasioni perdute, di Elena Dusi, dalla Repubblica di martedì 29 marzo.